Il buon funzionamento del mercato del lavoro è fondamentale, essenziale per rafforzare la crescita e la competitività delle economie della zona euro. Nei paesi e nelle regioni europee in cui la competitività è diminuita o dove il tasso di disoccupazione rimane alto, è importante che gli aumenti salariali non esauriscano completamente i guadagni di produttività, in modo da fornire incentivi alle imprese per creare nuova occupazione. In questo contesto, il Consiglio esecutivo della BCE considera che debbano essere evitati comportamenti che rafforzano la rigidità salariale e conducono ad accordi salariali non ottimali, come in particolare l'indicizzazione dei salari nominali sull'indice dei prezzi al consumo. E questo è uno dei messaggi da parte del Consiglio direttivo.